Al MAD Expo una delle novità forse più interessanti, novità mondiale addirittura, è Aurora, la prima tenda fotovoltaica, possiamo definirla così? Sì, tenda fotovoltaica avvolgibile. La novità è che per la prima volta, invece che raccogliere nei plissé, nei vari modi tradizionali, siamo riusciti a combinare una tecnologia nostra e giapponese con cui lavoriamo all'interno di un prodotto italiano, completamente brevettato in Italia e in tutto il mondo. È una tenda che sostanzialmente riesce ad arrotolarsi completamente su se stessa e a produrre energia elettrica tramite anche il conto energia una volta srotolata. Vogliamo ricordare i principali vantaggi? Sì, assolutamente. Essendo anche la prima tenda in assoluto, questa dà l'opportunità, oltre che ovviamente all'ombreggiamento, di essere combinata con il conto energia, che come si sa è quel finanziamento italiano che una volta che superiamo il kilowatt di potenza finanzia ogni kilowattora prodotto. Questa è una tenda appunto da 1,012 kilowatt per rientrare in questo conto energia e si ripagherà all'interno dei primi 10 anni dei 20 anni del conto energia. A chi è finalizzato un prodotto del genere? È finalizzato principalmente a tutte quelle famiglie o nuove costruzioni dove impianti fotovoltaici erano preclusi, vuoi per mancanza di superficie o per la sola superficie del lastrico solare di un appartamento, piuttosto che tutte quelle case dove non abbiamo il tetto a disposizione o andremo a impattare troppo su quella che è un'estetica o non vogliamo andare a utilizzare giardini piuttosto che altri spazi. Con questa soluzione andiamo ad ovviare a tutti questi problemi, senza parlare di tutte le applicazioni che qua il pubblico ci ha suggerito, perché è stato veramente un successo. Non teniamo dietro fortunatamente, ai visitatori.